22. I primi ad arrivare furono i Royal Green e gli indiani canadesi. Dal bastione del forte, Esther osservò i fanti in divisa verde sfilarle davanti, bramosi di una branda e di un focolare. Alcuni avevano un braccio al collo o la testa bendata, altri erano trasportati sulle tighe di fortuna. In testa cavalcava Sir John su un frisone nero. Il gentiluomo le indirizzò un'occhiata sfuggente, sul volto la stanchezza della marcia, la giubba polverosa. Zio Daniel seguiva a breve distanza sul margine della colonna, anch'egli a cavallo. Zia Nancy lo attese all'ingresso e scambiarono un rapido abbraccio. Quella notte Esther li sentì parlare fitto. Zio Daniel raccontava di una lunga battaglia furiosa oltre il lago Oneida. Erano morti quasi 200 uomini per parte, molti altri erano rimasti feriti. I ribelli assediati a Fort Stanwix ne avevano approfittato per compiere una sortita contro l'accampamento britannico, razziarlo e fare prigionieri. Come se non bastasse, si era sparsa voce che un secondo contingente ribelle era in arrivo di rincalzo agli assediati. Questo aveva scoraggiato gli indiani, che avevano deciso di tornare indietro. St. Leger aveva tolto l'assedio per riorganizzare le forze. Il pomeriggio del giorno seguente arrivarono i regolari. Una fila ordinata e scarlatta sbucò dalla pista lungo il fiume. Coppie di muli trascinavano cannoni e vettovaglie. Il colonnello St. Leger non guardò nessuno degli astanti usciti dalla spianata ad accoglierlo. Filò dritto sulla piazza d'armi e poi agli alloggiamenti degli ufficiali, seguito da Klaus e Sir John. Esther scese dai bastioni con gli occhi che bruciavano per aver scrutato l'orizzonte tutto il giorno. Dimenticò di dire le preghiere e lasciò volare il pensiero verso l'entroterra, in quella landa di acqua e foresta che restituiva agli uomini un po' alla volta, mai tutti insieme, di rado tutti interi. Si sforzò di sognare, ma ottenne soltanto un sonno breve e agitato. Due giorni dopo arrivarono i volontari di Joseph Brent. La loro marcia silenziosa attraversò il tramonto. Il cavaliere che li guidava montava una giumenta grigia. Quando passò sotto la sua postazione, Esther lo riconobbe, la giubba rossa con i gradi di capitano, la bandiera del regno che pendeva sotto la sella, il cranio calvo con il ciuffo lungo e pennuto. Impressionante e massiccio, era come se il mastice avesse fissato i tratti di Joseph Brent in una maschera. Lo seguiva John Butler, tetro e spettrale. Suo figlio non c'era. Quella sera Esther avrebbe saputo che Walter si era lanciato in un'impresa folle, scendere lungo il Mohawk con pochi uomini a caccia di ostaggi da scambiare con la madre e i fratelli, ancora prigionieri ad Albany. Molti volontari bianchi vestivano alla maniera indiana, portavano colori di guerra sul viso e scalpi alla cintura. Puzzavano di bestie selvatiche e carne putrida. Erano predatori stanchi. Uno di loro portava sotto il braccio un sacco sanguinolento, assediato dagli insetti. Esther non volle immaginare cosa potesse contenere. L'aria fresca della sera si insinuò tra le pieghe della veste. La ragazza tremò. Era l'ultimo giorno di agosto. Presto l'autunno avrebbe lambito il lago. Le sponde si sarebbero tinte di giallo e arancione in attesa che il vento del nord spazzasse il terreno per prepararlo alla prima neve. Esther pensò ancora alle parole di zio Daniel. Quella ritirata strategica, così l'aveva chiamata, significava che non avrebbero rivisto casa prima dell'anno seguente. Zia Nancy aveva chiesto se avrebbero svernato a Oswego. «No», aveva risposto zio Daniel, «torniamo a Montreal con Sir John e i suoi uomini». «E gli indiani?» «Vanno a Fort Niagara con Butler». I reduci della spedizione conservavano un segreto. Sul fiume Mohawk doveva essere accaduto qualcosa di terribile. Qualcosa che li aveva cambiati per sempre e si sarebbe ripercosso sui loro destini. Quella notte non chiuse occhio. Sentiva che lui era vivo e che sarebbe arrivato. Una voce della mente suggeriva che poteva essere morto, ma lei non ci credeva. Poco prima dell'alba cadde in un dormiveglio agitato. Sognò il riflesso delle foglie sull'acqua, la prua di una barca che solcava il lago. Si destò di colpo e seppe dove andare a cercarlo. Senza farsi sentire da zia Nancy e dalle serve, sgattaiolò fuori. Avvolta nello scialle, i capelli sotto la grande cuffia bianca, attraversò l'accampamento nel chiarore che precedeva l'alba. Passò tra le tende e le baracche, animate dai primi colpi di tosse e mugugni. Quel giorno, voci a proposito di un fantasma che si aggirava tra i bivacchi avrebbero percorso l'accampamento. Scese al molo, rapida e silenziosa. Le navi erano colossi addormentati, le pance lambite dalle onde. sul pontile scorse due figure fronteggiarsi. Scambiavano parole che non riuscivano a raggiungerla. Quando una delle due si allontanò, Esther si nascose sotto i pilastri di legno e attese che passasse sopra di lei. Sbirciando, riconobbe Joseph Brent, la stessa espressione dura di quando era arrivato il giorno prima. Raggiunse Lesta al fondo del pontile, dove l'altro uomo stava attrezzando un'imbarcazione leggera. Quando Philippe Lacroix si accorse della sua presenza, si voltò a guardarla a torvo. Esther lanciò un'occhiata in direzione di Joseph Brent, che risaliva al forte. Guardò la barca. «Dove state andando?» Philippe tolse il cappuccio alla vela arrotolata. «Dove andrà la mia gente? A Fort Niagara?» «Portatemi con voi», disse lei, senza esitare. Philippe smise di ispezionare il fondo in cerca di infiltrazioni e alzò il capo. La fissò, come volesse valutarne la determinazione. «Dovete restare con la vostra famiglia. Mia madre è morta, mio padre è a 1000 miglia da qui, le mie sorelle sono come estranee. A Londra, ogni volta che pensavo al ritorno, non era per nessuno che fosse ancora vivo, eccetto voi». Philippe sembrò non volerla più ascoltare. Risalì sul pontile, slegò la fune che teneva attraccata la barca e prese ad arrotolarla. «Vi prego, vogliono riportarmi a Montreal», aggiunse lei. «In Canada sarete al sicuro». «Anche a Londra lo ero, ma ho deciso di tornare». «Forse non dovevate farlo», disse Philippe. «Adesso risalite, prima che qualcuno si metta in allarme». Saltò dentro l'imbarcazione e puntò un remo contro il pilastro del pontile. Esther lo vide guadagnare yard verso il largo, nel ritmo placido della bassa marea. Guardò giù, poi di nuovo l'orizzonte. Gli occhi raccolsero la luce del giorno nascente, riflettendo il verde del lago. La brezza sollevò i bordi della cuffia che non riusciva a contenere i lunghi capelli biondi. La barca si allontanava. Saltò. Un buio gelido e sordo l'avvolse, mozzò il fiato, compresse i polmoni, contrasse gambe e braccia. Esther riemerse, tentò di nuotare, ma nessuno gliel'aveva mai insegnato. Tornò sotto, l'orizzonte scomparve e riapparve ancora, annaspò, inghiottì acqua. Il peso dei vestiti la portò a fondo, i muscoli rigidi di freddo, la sottana si aprì come un fiore nel lago. Una statua vestita, la polena candida di un relitto. «Esther!» In un anfratto della mente una voce di donna pronunciò il suo nome. «Esther!» Aprì gli occhi e riprese a muovere le braccia e a scalciare verso la superficie. Si sentì trainare da una forza invisibile. Emerse all'aria, ai suoni, alla luce, in un conato di vomito e vita. Con un singulto tornò a respirare e a tossire. Strinse il mezzo marinaio che le aveva agganciato la veste, mentre una mano l'afferrava e la trascinava sul fondo della barca. Tossì ancora, vomitò acqua. Quando il respiro riprese a regolare, guardò l'uomo da sotto le ciocche fradice. L'espressione di Philippe non tradiva emozioni. Esther vide la sponda allontanarsi. Non stavano tornando indietro. Un sollievo profondo le inondò il cuore, mentre i denti iniziavano a battere forte. Lui le lanciò una pelliccia arrotolata. «Togliti i vestiti e avvolgiti con quella». La ragazza rimase bloccata, indecisa se cedere al pudore o alla paura della polmonite. Senza aggiungere niente, Philippe svolse la vela e la frappose fra loro, lasciando che la brezza la gonfiasse. L'imbarcazione prese a filare più rapida. Esther si spogliò in fretta e si strinse nella pelliccia calda, lunga fino ai piedi. Scrutò la superficie del lago e vide riflesse le foglie come nel sogno della notte precedente. Navigavano lungo la costa meridionale, inseguiti dai raggi del sole. Aironi e astrologhe battevano le sponde a caccia di cibo, alzando il capo per guardarli passare. Accoccolata a prua, la testa che spuntava dal vello scuro lasciò che il tepore placido le scaldasse il corpo e l'anima. Le orecchie scottavano, le dita dei piedi e delle mani tornavano a muoversi una alla volta. La voce di Philippe ruppe il silenzio. «Saresti morta!» «Sapevo che non l'avresti permesso», rispose lei. «Tu pensi di sapere troppe cose». Esther scosse il capo. «Sono qui per ritrovare il mio posto». «Allora dovevi andare a Montreal, con i Johnson». La ragazza guardò l'ovest, oltre la prua. «Sono la nipote di Sir William. Vado dove sarebbe andato lui». Il giorno seguente attraccarono presso un insediamento di pescatori Cayuga. Philippe scambiò con loro poche chiacchiere. Volevano sapere della battaglia di Oriskany e di Fort Stanwix. Uno di loro domandò del grande diavolo. Philip disse che a quanto sapeva era caduto sul campo. La notizia li impressionò, rendendoli laconici. Fumarono, in onore del guerriero illustre. Philip barattò una scatola di tabacco con un vestito e un paio di mocassini di ottima fattura. La mattina dopo, quando risalì sulla barca, trovò Esther con addosso i nuovi indumenti. Si era anche raccolta i capelli in una treccia e sedeva davanti, brandendo il remo. Philip si soffermò a guardarla. Poi saltò a bordo e si mise al timone.